una serie di scioperi per un totale di 2 settimane. Oltre al già annunciato stop del 25 novembre, i lavoratori autonomi incroceranno le braccia un giorno a dicembre, 3 a gennaio, 2 a febbraio, 3 a marzo, 2 ad aprile e 3 a maggio. ANPAC, Unione Piloti, ANPAV, Avia ed SDL scelgono dunque la linea dura, denunciano inoltre la gravissima situazione che, a loro dire, si è venuta a creare con il perpetuarsi dell'atteggiamento di rigida chiusura adottato dalla CAI, fortemente sostenuta, dicono queste sigle sindacali, dal governo e con la complicità di CGIL, CISL, UIL ed UGL. Secondo gli autonomi che questa mattina si ritroveranno in assemblea a Fiumicino, sono stati stravolti e disattesi i contratti collettivi di lavoro già concordati e sottoscritti nel mese di settembre a Palazzo Chigi da tutte le sigle sindacali e dal governo. Quella dei sindacati autonomi, replica il ministro dei trasporti Matteoli, assomiglia ad una dichiarazione di guerra. È evidente, aggiunge il ministro, che il governo non si lascerà intimidire e assumerà al momento opportuno tutte le iniziative e i provvedimenti necessari per non danneggiare i viaggiatori. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.